Virgin Radio, Frank Albert. Hello, audio. CQ10, attenzione canale 10, c'è nessuno? Andiamo, andiamo. Ma ho migliorato il segnale, fa schifo. Cazzo, sì, dove vieni? Ah, vero? No, tu non vieni. No, ho aumentato un bel prima di 9. Ah, vero? E 9 a picchi positivi. Io lo so, non ci dà la casa, ma non lo so. Va bene, altro. Va bene. Che si butta il telefono? Flavio. Che sto mi risulta, zia? Adesso vedo un po' in rete se c'è qualcuno che le fa le batterie. E se c'è, mi fa prezzo buono la faccio. No, ma c'è un sciabuco, cazzo, 300... Allora, la porta praticamente da 10 ampere, ma la porta a 15 ampere. E se no mi costa, la così come mi costa 2,70, mi ha detto. O se la voglio più potente, più che duri di più, la mia più durata, 3,70. Mi ha mandato un du. Tanto non sei vero la bici. Lo so. Ma alla fine, ma non spendi meno hai. Già non so. Purtroppo lo so. Ma te la vuoi mandare in italiana? Non ho capito. Ho pensiata te la vuoi mandare. Ma chi tu? No, la batteria. Ma chi me la deve dare? Tu me la devi dare potenziata, ok, io quello là. Quello là. Vabbè, 13 ampere, 15 ampere. Che me ha 24 volts, magari 15 ampere. Lo so. Ci sono quelle potenziate. Meno amperai e meno dura, capito? Come baracchino uguale, con gli amperi. Meno amperai e meno cose per attaccare. Non lo so. E altro, pure dopo andare a Gussi. Come? Ah, pericoloso le batterie attaccare allo stadio. Non ce la fa a saldare. È pericoloso, e beh, sono a litio. Pericoloso, cazzo, che si scoppiano. Sta andando la taccia bicicletta, ma anche no, sono un acco. Pensate che sono anche 50 stasera, va bene così. Finché va, devo andare più vicino alla volta, apri della cura auto, passare per l'autoparco. Cosa si può fare? Ormai è andata così, pazienza. Ma andava meglio poco fa, allora che mi ero liberato. No, stai cambiando i pattini adesso. Mi sta diventando il cerchione che è storto. Poi vediamo quanto dura. Altro non posso dire. Quella dove fa bene in pianura tu, salita non ce la fa, capito? Brava. Vabbè, fa niente. Non so poco che marca è. La batteria è ciclica, non ce la fanno pagare un bello. No, via. Sono le batterie che fanno in Italia anche altro. Poi ci rimetto, sto cazzo di mal di gola, mi sta rompendo le palle, già mi sta passando, facciano la cura, fastidio, spray, è questo poco di nato. A quanto anche su bagno, questo danno che ci ho fatto, mi sono fatto di... Sì o no, la riferraffa, più di 200 euro spesso. L'anno che ho fatto, grazie, l'anno proprio si è presentato male, cioè avendo 200 euro in tasca sono meglio, allora cosa dici, ci facci rispenderti, e invece è andata così, vabbè, da pazienza, recupereremo piano piano, presa di buffa, oh via. Grazie, sei andato, al 9.30 almeno, ti è attaccato Antu. Ho capito, Ando, scusa. Anche così puoi testi fare. Allora, ma che vuoi? Ma vuoi perché sei sul tetto, perché non ho ostacoli, non c'ho niente. Eh beh, certo. Dunque, cioè, succede gente, se l'antenna ti va, se ti passasse, cioè se non ti passa magari vicino alle finestre la puoi sollevare, a voglia. No, c'è una parte che non passa per le finestre. Ma fai come Natalino, affatto. Solo che dovresti... è un casino. Come fai? Dovresti mettere una zappa, in modo tale che ti regga il palo su anche, allora gliela puoi punire. Non è che avevo insegnato, se no cosa puoi fare, nulla. Guarda grande. Tu sei tutto gatto. Tu passo da Costantino, insomma. Ehi, perché sto andando là, quello della batteria. Lo conosco anche quel tipo. Aspetta, ti faccio un piccolo sconto, non usa. Ma guarda quel rette. Adesso chiedo un po', se trovo qualcuno tipo come la fa, per di meno. La spedisco come la fa. Poi magari faccio un giro di conti e me la prendo quanto ho speso. Di meno non la prendo. E me la compro una nuova. Adesso vediamo, là. Esatto. Vieni, ragazzi, non puoi pensare come le pigliate. Via che 69, ragazzi, ce la fai. Però non sei pari, vai di là, cos'è? Io te l'ho trovato su eBay, aspetta. Se fai i soldi, ti fai, poi fai la prima macchina, ti fai la prima macchina, ti fai la giù. Se te l'ho contato? Sì, ecco là, ecco. Visto con scelta del Consiglio Europeo, con... Ce l'avevo messa male, ciao Zazà. È pieno di pesci. siamo beccato l'influenza. Perché forse fu un colpo d'aria. Il mio amico ha preso la ricaduta. Cazzo, roba. È uscito la aveva preso l'influenza, è uscito, e non ne aveva più, è rimasto un po' in tranquillità senza prendere aria e corrente, per le varie. La notte di Capodanno siamo andati, ecco, a Oristano, e il giorno dopo l'uno era Cianocco e l'uno era a casa con la febbre. Mi sono detto. Vabbè, ma lui è anche nebuloso come anche qua. Buonasera. Ciao Re. Ciao Re. Come va? Buonasera a tutti, ma adesso stavo. Stavo facendo una contrattazione. Ho letto. Stavo leggendo. Ma vuole solo me. Il problema è che Zazà si è messo in mezzo e mi stava facendo trattare la sua. No, certo. Fai affari tuoi, il problema è quello, perché gli ho detto lo sconto comitivo lo fai, no, ciao, me ne vado. Maria Carmela Vigli. Prima c'era uno che diceva ha donato 16 rose, ha donato 16 rose, ha donato 16 rose, era un fake. No, era un fake, non mi mandava nulla. Male lingua l'ascolto.